Cara sorella, ti invio un preludio e una fuga a tre voci che ha visto la luce grazie alla mia cara Constanze. Il barone Van Swieten, dal quale mi reco ogni domenica, mi ha prestato tutte le opere di Handel e di Sebastian Bach. Constanze mi ha molto rimproverato per non avere ancora composto quanto di più bello e saggio c'è in musica. Ha insistito ed ecco il risultato. Ho scritto Andante maestoso perché non la si suoni velocemente. Quando una fuga non è suonata lentamente, non si può riconoscere con chiarezza l'entrata del soggetto e di conseguenza non fa effetto. La frequentazione della biblioteca musicale del barone Van Swieten appassionò Mozart alle opere di Bach e Handel. I canoni a due, tre e quattro voci, composti a più riprese, rispecchiano l'omaggio del compositore verso questa forma polifonica, destinata a ritornare anche nelle ultime opere. Vienna, 5 febbraio 1783. Voglio confessarvi una mia idea. Non credo che l'opera italiana reggerà a lungo, ed io difendo senz'altro l'opera tedesca. Ogni nazione ha la sua opera, perché noi non dovremmo. La lingua tedesca non si può adattare al canto come il francese o l'inglese? Non canta più del russo? Ma la Cavalieri, Adam Berger, la Tiber, tutti i cantanti tedeschi di cui la Germania può essere fiera, devono restare in organico al teatro italiano e combattere i loro compatrioti. Se un solo patriota volesse agevolarlo, allora sì che il teatro nazionale potrebbe rifiorire. E quale eterna vergogna sarebbe mai se noi tedeschi cominciassimo tutto a un tratto a pensare in tedesco, agire in tedesco, parlare in tedesco e perfino cantare in tedesco. In breve, ora sto scrivendo un'opera tedesca tutta per me. Ho scelto la commedia di Goldoni, Arlecchino servitore di due padroni, e il primo atto è già tradotto. Questo progetto goldoniano, a cui Mozart lavora nel 1783, non si realizzò mai. Ne sopravvivono due frammenti di arie, una per basso e una per tenore.